stai? È tanto tempo che non ti facevi viva ed ora dai. Siedi qua, raccontami qualcosa. Sei rimasta sola come me. Anche tu hai fatto nuovi incontri, vissuto bei momenti oppure no. Ma perché ora stai tremando e mi guardi ingelosita come se io e te avessimo qualcosa ancora da dividere? Ma dai, che lo sai, non torno nel passato, in un gioco già vissuto, ma che fai? Te ne vai, rimani ancora un poco, facciamo l'amore. E dirsi già come stai, è tanto tempo che non ti facevi viva ed ora dai. Siedi qua, raccontami qualcosa, sei rimasta sola o come me. Anche tu hai fatto nuovi incontri, vissuto bei momenti oppure no. Qualcosa ancora da dividere, ma dai, che lo sai, non torno nel passato, in un gioco già vissuto, ma che fai? Te ne vai, rimani ancora un poco, facciamo l'amore.